Letture di Radio 24. Le violenze commesse dai manifestanti in Val di Susa, che il capo dello Stato ha definito eversive, sono espressione di una protesta fatta, nella maggior parte dei casi, da persone alle quali dell'alta velocità non importa nulla. Le bombe di ammoniaca non servono a riconquistare il cantiere presidiato dagli invasori. Sono una dichiarazione di intenti, piuttosto. Servono solo a sfregiare e deturpare i volti degli odiati poliziotti. Alla maggioranza dei manifestanti, pietoso eufemismo definirli così, che hanno fatto una vergognosa caccia all'uomo in divisa, dell'alta velocità in Val di Susa non importa nulla. È tutta gente che ha risposto presente all'appello. È sbagliato parlare di infiltrazioni dei Black Bloc. Domenica scorsa c'erano semmai degli invitati, chiamati a gran voce dalle realtà antagoniste di Torino, che costituiscono da sempre la spina dorsale del movimento NOTAV. I centri sociali più radicali, negli anni, sono diventati una sorta di bastone al quale si appoggia la comunità locale. A cercare lo scontro non c'erano indigeni, ma solo gli ingestibili matti giunti fin lassù seguendo il rullo dei tamburi lanciato via internet, per dare sfogo a una rabbia greca, figlia dell'odio e della frustrazione. Quel che si preparava in Val di Susa era sotto gli occhi di tutti. Era l'esplosione di una furia invocata ma incontrollabile, che gli stessi organizzatori dichiaravano di non poter gestire, senza per questo rinunciare a rinfocolarla con annunci folli. La scelta di mandare avanti bombaroli addestrati, facendoli seguire da massai e padri di famiglia, è stata consapevole, propedeutica all'esaltazione della grande manifestazione di popolo. Proprio per questo, adesso che si contano i feriti, appaiono ancora più stonate certe frasi ascoltate negli ultimi giorni, quelle di Nicky Vendola e Antonio Di Pietro, che portando la loro solidarietà alla valle occupata militarmente, hanno dimostrato di non aver capito nulla. Se ridevano compiaciuti gli stessi militanti puri e durissimi di quelle dichiarazioni, consapevoli loro che anche la controinformazione può essere palesemente falsa. Quelle di Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione, che nei giorni di Chiomonte, a chi gli faceva notare che evocare a mezzo stampa un nuovo G8 di Genova era inappropriato e pure iettatorio, rispondeva facendone una questione di visibilità politica. Su Beppe Grillo non è il caso di spendere troppe righe. Adesso che sotto una coltre di violenza vengono seppellite anche le buone ragioni del movimento NOTAV, sarebbe bene che tutti cominciassimo a chiamare le cose con il loro nome, lasciando da parte finzioni populistiche e finto eroiche, evitando di tirare in ballo i partigiani, Garibaldi, le lotte di liberazione e Susa come Kabul. Perché comunque la si pensi sull'alta velocità, l'ammoniaca in faccia a operai e agenti non deve far parte di alcuna epopea valsusina. Non è simbolo della ribellione del debole contro il forte. È un gesto vigliacco e disumano. Null'altro. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Marco Imarisio, Ambiguità inaccettabili, dal Corriere della Sera del 4 luglio. Letture di Radio 24. Tra le manifestazioni di domenica scorsa in Val di Susa è necessario fare una distinzione tra quella pacifica del mattino e quella violenta del pomeriggio. Lo scrive Michele Brambilla sulla Stampa. Ma chiamando eroi tutti i manifestanti e parlando di dittatura, guerra civile e rivoluzione, Beppe Grillo dimostra di non aver capito la differenza che c'è tra un treno e un colpo di Stato. Sarebbe fin troppo banale condannare la guerriglia in Val di Susa dicendo che mai e poi mai si può giustificare l'uso della violenza, che una cosa sono le proteste pacifiche e un'altra i lanci di pietre e di bombe carta, eccetera, eccetera. Tutte considerazioni ovvie, anche se doverose. Ma questa volta crediamo che si possa dire qualcosa di più, oltre alla solita litania di sdegno, indignazione, ferma condanna e così via. Il punto è la distinzione tra la manifestazione del mattino e quella del pomeriggio. La prima è stata pacifica, con famiglioli in corteo. La seconda, la gazzarra che sappiamo, con i famigerati Black Bloc in azione. Tra i manifestanti del mattino e quelli del pomeriggio, o se volete tra gli storici comitati NOTAV e i professionisti della violenza, c'è dunque una differenza netta. Questa sarebbe appunto la considerazione scontata e banale. Quella meno scontata e meno banale, invece, riguarda i toni, le dichiarazioni, i discorsi che purtroppo abbiamo sentito anche dai manifestanti non violenti. Abbiamo sentito parlare di militarizzazione della valle, di violenza di Stato, di polizia assassina. Beppe Grillo, poi, ci ha messo il suo carico da 90. Domenica scorsa è venuto in Val di Susa e dalla sua arringa abbiamo estrapolato parole come dittatura, guerra civile, rivoluzione, eroi. Mettendo in ordine queste parole pesanti come pietre, Grillo ha in sostanza detto che in Val di Susa il regime sta facendo prove di dittatura, che siamo ormai alla guerra civile e che in OTAV faranno una rivoluzione che li renderà, appunto, degli eroi. Ma di che cosa stiamo parlando? Si può pensare ciò che si vuole dell'alta velocità, ma occorre anche stare ancorati alla realtà. E la realtà è che in Val di Susa si stanno scavando delle gallerie per far passare un treno. Belle o brutte, ma gallerie per un treno. Punto e stop. Dove sono le prove di dittatura? Inoltre, mettendo tutto nel medesimo minestrone, i capi della protesta attribuiscono a Berlusconi il tentato golpe della TAV, che invece è stata decisa da governi precedenti e di diverso colore, che è scolpita in un accordo intergovernativo tra Italia e Francia e rientra tra le grandi reti europee che disegneranno i trasporti per almeno un secolo. Se la Torino-Lione non si farà, un pezzo consistente di Italia sarà tagliato fuori da questa rete e non per 4 o 5 anni, ma per il futuro. È una faccenda che va guardata con un'elementare prospettiva storica, specie nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia, perché proprio allora si decise il traforo del Frejus. Cosa sarebbero stati il Piemonte e l'Italia senza quella linea ferroviaria voluta da Cavour? È possibile che un sistema economico sia prigioniero di una minoranza localistica condannata a diventare l'alibi dei professionisti della guerriglia? Che c'entra Berlusconi? Qualche giorno fa, l'ex sindaco Chiamparino, che certo non è berlusconiano, ha ricordato l'elementare principio secondo il quale la democrazia ha delle regole, per cui un'opera ormai decisa e deliberata non può essere messa in discussione all'infinito. Oltretutto, prima di dare il via all'opera, ci sono stati centinaia di incontri con i sindaci, variazioni del tracciato e via dicendo. Insomma, non si può dire che non si siano ascoltate anche le ragioni di chi era contrario. Pure le accuse rivolte alla polizia ci paiono deliranti. Si è parlato di cariche di tipo sudamericano. A noi pare che, a differenza di quanto accadde 10 anni fa a Genova, la polizia sia stata attentissima a non compiere alcun abuso. Si è difesa, certo. Non doveva? L'elenco dei feriti però parla chiaro. La stragrande maggioranza sono poliziotti, non manifestanti. E comunque anche qui c'è una sproporzione stupefacente tra la realtà e la sua raffigurazione fornita da alcuni capi della protesta. La polizia ha cercato di garantire l'apertura di un cantiere. Non è venuta a reprimere un'espressione di libero pensiero. Chi guida a viso scoperto la protesta non mette il passamontagna dei delinquenti e vuole sinceramente mantenere il tutto nell'ambito della manifestazione pacifica, dovrebbe riflettere sull'effetto che certe iperboli hanno sulle teste calde. Si sa che ci sono le teste calde. Se si continua a far credere che in Val di Susa, invece che un treno, passerà un golpe, sarà più difficile operare distinzioni nette tra le manifestazioni del mattino e quelle del pomeriggio. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Michele Brambilla, La differenza tra un treno e un golpe, dalla stampa del 4 luglio.